Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, superate le 5.000 vittime nel mondo, anche la Germania verso la chiusura delle scuole, le borse europee rimbalzano dopo il crollo record di ieri. L'UEFA ferma il calcio, intanto stop Europa e Champions League, sospesi anche i campionati inglese, francese e tedesco, la Slovenia blocca i tir in ingresso dall'Italia. Emergenza posti letto, la Lombardia valuta se aprire dei reparti ospedalieri nella Fiera di Milano, idea nave ospedale in Liguria. In corso l'incontro tra governo e parti sociali, i sindacati chiedono di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle aziende. Parchi chiusi in molte città, ma la passeggiata e l'attività all'aria aperta restano consentiti purché da soli e rispettando la distanza dalle altre persone. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Anche oggi naturalmente un'ampia pagina dedicata alle notizie sul coronavirus nel mondo. Come avete sentito, sono state superate le 5.000 vittime. In Italia i dati di ieri si riferiscono a 12.000 casi attivi. Il contagio si sta estendendo soprattutto in Europa, dove anche la Germania ha annunciato la chiusura delle scuole. Si ferma pure il calcio con l'annuncio dell'UEFA di sospendere Europa e Champions League, ma iniziamo dalla situazione in Italia. Le cronache raccontano di un'Italia ancora sospesa che tra negozi chiusi e strade deserte aspetta novità sulla diffusione del virus. Gli ultimi dati parlano di oltre 12.000 malati e più di 1.000 morti. La situazione resta difficile soprattutto negli ospedali della Lombardia, dai quali arrivano però anche notizie positive, come conferma a Obiettivo Salute Antonio Pesenti, coordinatore dell'unità di crisi regionale per le terapie intensive. Della Lombardia. Abbiamo oggi trattato circa 1.000 pazienti. La buona notizia è che il numero dei trasferiti dalle terapie intensive nei reparti a bassa intensità supera i 100, mentre il numero sfortunato dei decessi è inferiore ai 100. L'Austria, intanto, oggi ha deciso di chiudere 47 valichi minori con l'Italia. A Milano il sindaco Sala ha disposto la chiusura dei parchi a partire da domani. Nella capitale, invece, la sindaca Raggi ha chiesto ai romani di affacciarsi ai balconi questa sera alle 19 per cantare insieme, un modo di tenersi compagnia a distanza che nelle ultime ore ha preso piede in diverse città italiane. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cresce, dicevamo, il contagio in Europa. La Francia, ieri sera il presidente Macron ha decretato la chiusura da lunedì delle scuole, notizia che arriva oggi anche dalla Germania. Positiva poi anche la moglie del premier canadese Trudeau. Il panorama internazionale per quanto riguarda la pandemia di coronavirus è sconfortante. Per trovare una buona notizia bisogna andare in Corea del Sud, dove ci sono state più guarigioni che contagi. Per il resto sono tutte cattive notizie. Sale il bilancio dei contagiati negli Stati Uniti, sono più di 1.600. La moglie del premier canadese Trudeau è positiva e il premier in autoisolamento. Un po' alla volta, anche in Europa vengono portate avanti misure di prevenzione. In Francia le scuole resteranno chiuse da lunedì per 15 giorni. In Germania la Baviera ha deciso di chiudere le scuole da lunedì fino al 6 aprile. Si tratta di una misura però a livello regionale e non federale. Ci sono poi i controlli al confine con l'Italia. Da questa mattina le autorità slovene hanno bloccato lungo il confine l'accesso a tutti gli automezzi oltre le 3,5 tonnellate che non abbiano targa slovena. Anche l'Austria aveva applicato severi controlli al confine. Il governo italiano ha chiuso fino al 25 marzo più di metà degli aeroporti italiani, compresi alcuni tra i più importanti come quello di Linate. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alle misure economiche, alla controffensiva del governo per cercare di sostenere l'economia dalle conseguenze del coronavirus. Il Consiglio dei Ministri di oggi deve approvare il decreto operativo fino a 5 miliardi per l'aumento della cassa integrazione, previsti anche lo stop alle cartelle fiscali e ai versamenti contributivi. Sentiamo. Dal servizio sanitario agli ammortizzatori sociali, dal fisco ai mutui, il governo al lavoro per sostenere famiglie e imprese con un decreto che dovrebbe arrivare in serata o nella giornata di domani. Tra le ipotesi c'è anche la riduzione delle bollette per tutto il 2020 da attuare attraverso un intervento sugli oneri di sistema e poi sospensione di alcune scadenze fiscali imminenti a partire da quelle per l'IVA del 16 marzo, cassa integrazione estesa a tutti i dipendenti ampliata con il fondo di integrazione salariale, previsti anche meccanismi di sostegno per precari, partite IVA, professionisti, stagionali, contributo per le babysitter o 15 giorni di congedo per i genitori. La bozza del nuovo decreto, ancora in via di definizione, prevede che i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva saranno equiparati alla malattia. In arrivo anche incentivi alla produzione di mascherine, sostegno per il sistema sanitario e la possibilità di requisire alberghi e altri immobili per aumentare i posti letto per far fronte all'emergenza. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ed è intanto iniziato anche il confronto tra il governo e le parti sociali, sindacati e aziende, dopo gli scioperi di ieri in alcune aziende, per valutare quale attività sono in grado di proseguire, come indicato dall'ultimo decreto, e come in ogni caso sia possibile garantire nei luoghi di lavoro le condizioni di sicurezza per tutti i lavoratori. Il governo incontra sindacati e imprese per fare il punto sulla sicurezza nei posti di lavoro dopo i decreti emanati per arginare la diffusione del coronavirus. Ieri in molte fabbriche è partita la protesta spontanea dei lavoratori che chiedono mascherine di protezione e rispetto delle distanze di sicurezza come stabilito dai provvedimenti dell'esecutivo. FIOM, FIM e WILM ritengono necessario che le imprese metalmeccaniche, a prescindere dal contratto utilizzato, si fermino momentaneamente per sanificare, mettere in sicurezza e riorganizzare i luoghi di lavoro. E appena ci sono le condizioni di sicurezza si torna a lavorare, dice il segretario della FIM Marco Bentivogli ai microfoni di 24 Mattino. Dove è possibile utilizzare strumenti contrattuali fino al 22 marzo per mettere al minimo e fermarsi per cercare di mettere a posto in sicurezza le aziende. Se un'azienda è in sicurezza da subito o è in sicurezza in un giorno, due giorni, da martedì si può rientrare a lavorare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E non mancano, fortunatamente anche le buone notizie, perché dalla ricerca italiana arriva la speranza per la messa a punto di farmaci per contrastare le conseguenze del coronavirus. Si sperimenterà anche in Italia l'efficacia dell'antivirale Remdesivir contro il coronavirus. Lo hanno annunciato l'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, e la società farmaceutica americana Gilead. L'Italia parteciperà ai due studi di fase 3 promossi da Gilead Sciences per valutare l'efficacia e la sicurezza della molecola sperimentale Remdesivir negli adulti ricoverati con diagnosi di Covid-19. Gli studi saranno inizialmente condotti presso l'ospedale Sacco di Milano, il Policlinico di Pavia, l'azienda ospedaliera di Padova, l'azienda ospedaliera universitaria di Parma e l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. L'AIFA ha dato il via libera alla sperimentazione anche di un altro farmaco, il tocilizumab, un antiartrite reumatoide prodotto da Roche, che ne ha annunciato l'erogazione gratuita, già sperimentato con successo all'ospedale Cotugno di Napoli sui pazienti Covid-19 in condizioni critiche. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le altre notizie adesso, cominciamo con la cronaca: ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di pistola e poi si è tolto la vita. È successo stamani a Beinasco, in provincia di Torino. L'autore del gesto è un ex vigile urbano di 66 anni. E invece nel Reggino un boss latitante dell''Ndrangheta è stato arrestato, individuato per violazione delle norme da coronavirus. Sono stati i controlli sul rispetto delle norme per l'emergenza coronavirus a tradire Cesare Antonio Cordì, 42 anni, sfuggito agli arresti nell'agosto scorso. I militari hanno carpito il bagliore di una sigaretta filtrato attraverso la fessura di una tapparella, quando in una casa di Contrada Monica di Bruzzano Zeffirio, nel Reggino, invece non doveva esserci nessuno. I carabinieri hanno anche impedito la fuga del latitante da un'uscita secondaria. Cordì si era reso irreperibile in occasione dell'esecuzione dell'operazione riscatto. contratto coordinata dalla DDA di Reggio Calabria. È accusato di trasferimento fraudolento di valori ed è considerato a capo della Cosca Cordì, come afferma il tenente colonnello Giovanni Capone, comandante del gruppo carabinieri di Locri. È l'elemento di vertice di questo clan che si era reso responsabile dei maggiori episodi criminali nel Locride. È stato determinante anche questa volta la raccolta informativa e di tutti i presidi dell'arma dei carabinieri che sono presenti in quasi tutti i comuni della Locride. Indagine ancora in corso per ricostruire la rete di persone che ha favorito la latitanza di Cordì. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. All'estero, ora in Turchia, ricorderete la vicenda del naufragio nel mare Egeo di una nave di migranti a settembre del 2015, nella quale morì anche il piccolo bambino siriano Alan Kurdi. Ebbene, il tribunale turco ha condannato 3 scafisti a 125 anni di prigione a testa. L'immagine del corpo di Alan, 3 anni, riverso su una spiaggia di Bodrum, aveva commosso il mondo e scatenato l'indignazione per la crisi subita dai profughi siriani. Da quella spiaggia, sulla costa Egea della Turchia, nel settembre 2015, era partito il gommone verso le isole greche, nel cui naufragio trovarono la morte 4 persone, oltre al piccolo Alan Kurdi. I magistrati avevano individuato 5 sospetti responsabili di quella tentata traversata nel mare Egeo, 2 siriani e 3 turchi. I siriani erano già stati arrestati e condannati nel 2016 a 4 anni e 2 mesi ciascuno per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ora, ben più pesante, è arrivata la condanna per i 3 scafisti turchi rimasti latitanti fino al recente arresto nella provincia turca di Adana, vicino al confine siriano. Portati nel tribunale cittadino, sono stati giudicati in mattinata in videoconferenza dai giudici di Bodrum, dove si era svolto il processo, e condannati ciascuno a 125 anni di reclusione, questa volta per traffico di esseri umani e omicidio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È una conseguenza forzata dell'Italia che si ferma per contenere il contagio, ma è pur sempre una notizia. Parliamo del calo dello smog, delle polveri sottili nell'aria, anche nel nord Italia. Anna Marino ne ha parlato con l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli. Adesso la nostra prima preoccupazione della città è chiaramente la sfida sul coronavirus. Il tema dello smog esiste, noi abbiamo comunque una strategia strutturale di cura dell'ambiente. I dati che abbiamo visto in questi giorni ci dimostrano quello che noi stiamo sostenendo da tempo, che il traffico è comunque nelle grandi aree urbane un determinante fondamentale delle politiche sull'aria, e quindi la riduzione del traffico ha generato una riduzione strutturale dei livelli di PM10 e NOx. Come la gestione della mobilità in questi giorni? Sì, noi manteniamo in questi giorni comunque un livello minimo di trasporto pubblico. Da domani il trasporto pubblico sarà circa meno 45% a fronte di una presenza di passeggeri che è meno 80%. 13:12, effetto giorno fa un break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, raccoglieremo anche l'appello tra l'altro di 5.000 medici laureati in attesa dell'esame di abilitazione, vorrebbero dare una mano in questi momenti difficili ma non possono farlo e allora propongono di fare invece l'esame di abilitazione online, perché come sapete tutti i concorsi pubblici sono stati sospesi. 349-238-6666 per i vostri messaggi, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. One Express, il pallet Express. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, superate le 5.000 vittime nel mondo, anche la Germania va verso la chiusura delle scuole, le borse europee intanto rimbalzano dopo il crollo record di ieri. L'UEFA ferma il calcio, stop a Europa e Champions League, sospesi anche i campionati inglesi, francese e tedesco, la Slovenia blocca il transito dei tir dall'Italia. Reparti ospedalieri nei locali della Fiera di Milano, la Lombardia cerca così di far fronte all'emergenza posti letto. Idea nave ospedale in Liguria, tra poco in diretta il presidente Toti. A Radio 24 anche l'appello dei 5.000 medici laureati, potrebbero dare una mano, ma senza l'esame di abilitazione non possono. La proposta, facciamo il test online. 13:16, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, avete appena sentito i titoli delle notizie di oggi. Salutiamo, è con noi il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Allora, prima di parlare di questa idea che arriva dalla Liguria, così come la Lombardia abbiamo sentito sta valutando se non utilizzare i locali della Fiera di Milano per creare dei veri e propri reparti ospedalieri, voi state valutando e c'è già un progetto operativo per una nave ospedale da campo. Però prima le voglio chiedere, Toti, una valutazione, un giudizio anche politico, pur diciamo in queste fasi in cui prevale sicuramente l'emergenza, lo spirito costruttivo, lo ha detto anche chiaramente il leader di tutto il centrodestra, Matteo Salvini, il leader dell'opposizione, però come si sta muovendo secondo lei il governo nelle ultime ore? Ma guardi, c'è stato qualche atteggiamento evidentemente, come dire, la sequenza dei decreti del Presidente del Consiglio che andavano ad inasprire via via le misure hanno probabilmente creato qualche incomprensione anche con l'opinione pubblica generale circa la gravità del fenomeno e la necessità di uno sforzo straordinario per stroncarlo nel più breve tempo possibile. Detto questo, credo che si sia attivata una collaborazione istituzionale corretta, come è giusto che sia in un grande paese come il nostro in questo momento. Il governo sta cercando di tenere insieme esigenze che sono diverse, ma sono esigenze di tutti noi: da un lato garantire la salute dei cittadini, ovviamente, dall'altro tenere un filo di motore acceso a questo paese, soprattutto garantire i servizi essenziali, cioè quelli, la corrente elettrica deve arrivare nelle case, le merci devono essere trasportate e quant'altro. Quindi non è un lavoro facile, lo stiamo facendo tenendo insieme anche esigenze di territorio che molto spesso sono diverse, perché è ovvio che la Lombardia e il nord oggi vivono un impatto potentissimo con un dramma di persone che muoiono, altre parti del paese in questo momento lo sentono di meno, però arriverà da tutte le parti. Io mi aspetto in Liguria il picco per i primi giorni della settimana prossima, stiamo appunto cercando di organizzarci proprio per evitare che l'acqua esca dagli argini, che sì, tutti i liguri abbiano ovviamente il letto e la destinazione di cura che è giusto avere per la loro stato di malattia. Penso che ce la possiamo fare impegnandoci tutti fino in fondo. Adesso bisogna tenere ferme le misure che abbiamo preso, vedere quando funzionano, perché bisogna dire ai cittadini che le misure prese ieri l'altro avranno effetto probabilmente tra una settimana, 8-10 sì, giorni. Sì. Non certamente. Non prima, non prima. Bisogna tenere un po'. Bisogna tenere un po' duro. Presidente Toti, veniamo invece a questa proposta, questa idea che in realtà è un progetto già operativo di una nave, almeno una nave da utilizzare come una sorta d'ospedale da campo. Un'idea circolata, l'ha detta per esempio, l'ha sostenuta anche l'ex ministro Boschi, per esempio, no? Un'idea che in che cosa consiste? Ci stiamo lavorando da alcuni giorni con MSC, che è il più grande armatore italiano nel mondo. Secondo al mondo è un traghetto che in questo momento, essendo ovviamente non utilizzato per la sua funzione, può ospitare un certo. È andata giù la linea, forse, sì, anzi, sicuramente. Con il presidente della Liguria Giovanni Toti, non so se riusciremo a recuperarlo, anche perché abbiamo tempi contingentati. Vediamo un attimino, stiamo provando proprio a chiamare in questo momento. Sì, ce l'abbiamo. Allora, Toti, l'abbiamo sentita fino a un certo punto quando ha detto che c'è un progetto operativo. Sì, è un progetto in cosa consiste? Che in settimana prossima io spero che sia già attivo. Ovviamente, bisogna spiegare che non è che metteremo malati che hanno bisogno di cure, diciamo, ad alta intensità. No, su quella nave. infatti, però chi ci mettereste? Metteremo i malati per la convalescenza in uscita dagli ospedali, sì, soprattutto quelli più fragili, metteremo le persone che avrebbero potuto fare il coronavirus a casa, quindi sintomatici lievi, ma che avendo a casa situazioni di famiglia che potrebbero contagiare, oppure di solitudine, quindi non potendo uscire a fare la spesa, a prendersi cura della propria persona, lì avranno tutta l'assistenza infermieristica, medica e anche, diciamo, umana che serve, certo, per sfangare questo periodo. Due notizie al volo, se è in grado di dircele. Quanti posti letto in questa nave e quante navi potrebbero esserci? Partiamo con moduli da 25, quindi noi speriamo di attivarne 25 già la settimana, sì, prossima, e poi via via crescere. Sono traghetti da 400 posti, quindi potrebbero potenzialmente averne molti. Cercheremo di non sovraccaricarli, ovviamente, perché gli spazi su una nave sono ristretti. I nostri medici stanno facendo un lavoro per vedere quanti posti sono compatibili con una struttura di quel genere, che diventerà molto utile, bisogna dirlo, soprattutto, diciamo, passato il picco, quando dagli ospedali finalmente comincerà a uscire la gente, perché bisogna dire che di coronavirus per lo più si vive, non si muore, anche se ovviamente può essere molto letale in alcuni soggetti, e quindi avremo poi un'onda lunga che si perpetuerà nei giorni e nelle settimane a venire, con le persone che, salvate dalle nostre terapie intensive, salvate dalle nostre terapie semi-intensive, poi avranno bisogno di recuperare prima di ritornare alla loro vita precedente. Grazie a Giovanni Toti, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Apriamo un'altra pagina, una piccola pagina dedicata, come accade spesso il venerdì, all'anticipazione di un reportage che in questo caso andrà in onda sabato alle 8:15 su Radio 24, alle 8:15 del mattino, dedicato alla gestione delle emergenze, ma non emergenza da coronavirus, bensì le più classiche e tradizionali emergenze come frane, alluvioni, eventi sismici, nei quali l'Italia però fa da apripista, è un paese in grado di fare scuola in questo settore in Europa. A questo è dedicato l'Euro Reportage in onda appunto sabato mattina. Anna Marino, sentiamo. Al di là delle conoscenze e delle risposte scientifiche, la prevenzione insieme alla gestione delle emergenze sono i due pilastri che in Europa guidano fondi europei e l'azione delle istituzioni. Secondo la Commissione europea, infatti, un euro speso in prevenzione permette di ridurre di almeno 4 euro le spese legate all'emergenza, alla ricostruzione e al risarcimento, quanto possibile, dei danni provocati dalla calamità. E l'Italia è il paese europeo con maggiori criticità, confermato dal fatto che il nostro paese è il maggior beneficiario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, con circa 2,5 miliardi di euro ottenuti, pari alla metà dell'importo totale erogato ai 28 paesi membri negli ultimi 15 anni. E proprio le imprese italiane hanno fatto da apripista e hanno portato lo scorso novembre al Parlamento europeo e alla Commissione europea il PGE, il programma gestione emergenze, firmato da piccola industria Confindustria e Dipartimento Protezione Civile, oltre a diverse proposte rientranti nel Green Deal, con gli obiettivi della resilienza e della sostenibilità nel tempo di fronte alle calamità naturali e alle emergenze sanitarie come quella del coronavirus. Diego Mingarelli, vicepresidente per l'Europa, sviluppo e coesione territoriale, resilienza e PGE. Per esempio adesso stiamo lavorando come Task Force PGE sul tema dell'emergenza coronavirus, le necessità di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, e abbiamo mappato tutte le aziende che sono produttrici di questi articoli, e per garantire ovviamente la continuità delle forniture, che è un valore estremamente importante. Allora, in questo momento di stress, di forte stress per il sistema sanitario, c'è una situazione particolare che riguarda, l'abbiamo anticipato nei titoli, 5.000 medici, giovani laureati in medicina, anzi, che sono appunto in attesa di fare l'esame di abilitazione. Era previsto il 28 febbraio, ma proprio per il blocco, per esempio anche ai concorsi pubblici, decretato dal DPCM, del Presidente del Consiglio Conte, è slittata al 7 di aprile. Per questo, questi giovani 5.000 laureati potenzialmente potrebbero essere utili, ma non possono essere utilizzati in nessun modo: guardie mediche, sostituzione dei medici di famiglia malati, per esempio, o anche in appoggio negli ospedali. Allora, ne parliamo con Federico Lavagno, coordinatore nazionale del Dipartimento Post Laurea del Segretariato Italiano Giovani Medici. Buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti. Ho detto bene, la sigla è piuttosto lunga. Sì, lei è un giovane neolaureato, non ancora medico in sostanza, giusto? Sì, esatto. Io mi sono laureato, diciamo, a fine ottobre. Sì. E noi, diciamo, laureati in medicina e chirurgia, a seguito del conseguimento del titolo, sosteniamo poi un esame di Stato per esercitare la professione, la libera professione. E da lì diventiamo poi a tutti gli effetti medici. In attesa, ricordiamolo, anche poi di fare la specializzazione vera e propria, cioè, perché l'iter prevede questo, cioè l'università, la laurea, il tirocinio, questo esame, giusto, e poi la specializzazione, corretto? Sì, esatto. Voi state nel mezzo. Noi esatto, dopo la laurea abbiamo l'esame di Stato, che è composto da una parte pratica, quindi il tirocinio. I tirocini, sì. Sono 3 mesi che adesso si E questo lo avete fatto voi 5.000? Sì. noi quindi possiamo anche dire di questo aspetto, no? Possiamo dire, voi avete studiato, siete laureati, avete fatto il tirocinio, vi manca questo esame di abilitazione che tra l'altro normalmente, non voglio dire che è una formalità, non voglio dire che è un passaggio burocratico inutile, qualcuno potrebbe anche pensarlo, così come per altre categorie professionali è l'abilitazione professionale, però di fatto, se non sbaglio, c'è un elevato tasso di superamento di questo esame in genere, giusto? Allora, siccome l'esame di Stato si compone in una parte pratica, come sì, dicevamo, che sono i tirocini che vengono fatti pre-laurea oppure post-laurea, e una parte teorica, in cui c'è un quiz a risposta multipla, in cui noi abbiamo già in precedenza fornito dal Ministero un pool di domande in un database di circa 6.000 quesiti, più di 6.000 quesiti. Noi appunto la seconda parte dell'esame di Stato non è diciamo un qualcosa che rende ulteriormente selettivo l'esame di Stato in sé. La prima parte invece, che è la parte di tirocinio, è già una parte valutativa, quindi noi siamo già stati valutati certo, diciamo sotto la nostra diciamo competenze pratiche. Noi quello che chiediamo è, a fronte di questo, a fronte del fatto che dovevamo sostenere diciamo il test teorico, sì, il cui superamento ha un tasso altissimo, perché ovviamente avendo già diciamo il database di domande non ha una selettività è chiaro. Veniamo però Federico, veniamo però a perché voi fate una proposta in sostanza per cercare di uscire da questo impasse, che è un impasse necessario di fatto, non avete fatto l'esame quindi non potete essere impiegati, però c'è una situazione straordinaria, voi vorreste in qualche modo cominciare a dare una mano in appoggio agli ospedali, in sostegno, come sostituti dei medici curanti di base che magari si sono ammalati o in altri modi. Qual è la proposta che fate? Allora, queste sono tutte diciamo cose che noi potremmo fare se avessimo l'abilitazione. La proposta è che il governo, i ministeri e il ministro soprattutto si adoperino per far sì che l'esame di Stato attuale, a causa di questa emergenza, preveda l'abilitazione, quindi la valutazione solamente dei tirocini che già abbiamo eseguito e sui quali già siamo stati valutati. Noi siamo stati valutati per 6 anni su 360 crediti, sì, e quindi le competenze. Ma sbaglio, scusa Federico, avete fatto anche la proposta dove è necessario, in caso di fare online un test per diciamo chiudere anche questa pratica dal punto di vista formale? Sì, diciamo che la proposta primaria sarebbe quella di valutare solamente i tirocini e di rendere validi quelli come diciamo abilitazione per la professione medica. In secondo luogo, se questo normativamente non fosse possibile, sicuramente abbiamo proposto anche di stabilire un test telematico che sì, permetta di superare questa prova con un tasso di superamento non distantissimo, anzi uguale praticamente a quello che già si succedeva. Noi storicamente abbiamo già depositato, non in questo periodo di emergenza, ma precedentemente, delle proposte perché la laurea in medicina e chirurgia sia veramente abilitante, cioè che cosa vuol dire? Diciamo di abolire questo esame sostanzialmente. Esatto, era già una proposta che storicamente noi, come molte altre associazioni di studenti, abbiamo fatto, cioè che il laureato in medicina ha tutte le carte in tavola alla laurea per poter esercitare una serie di attività legate alla professione, poi naturalmente c'è la specializzazione che è necessaria anche per poi entrare in corsia, per fare altre cose, ma insomma questo esame che da alcune parti già si chiede che possa in qualche modo essere bypassato, abolito, semplificato, in questo momento straordinario la vostra richiesta è quello proprio di farne a meno, di poter utilizzare voi 5.000 medici neolaureati in questa situazione qua, che insomma è chiaro a tutti, ce ne sarebbe davvero bisogno. Grazie a Federico Lavagno, noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, 349-238-6666 con tutte le altre notizie di Effetto Giorno. Effetto Giorno. Queste notizie di oggi: coronavirus superate le 5.000 vittime nel mondo, anche la Germania verso la chiusura delle scuole. La presidente della Commissione europea von der Leyen apre alla sospensione delle regole del patto di stabilità. Le borse europee rimbalzano dopo il crollo record di ieri. I sindacati incontrano il governo e chiedono di fermare le aziende e garantire la sicurezza dei lavoratori. L'UEFA intanto ferma il calcio, stop a Europa e Champions League, sospesi anche i campionati di calcio inglese, francese e tedesco. Parchi chiusi in molte città italiane, ma la passeggiata e l'attività all'aria aperta restano consentiti, purché da soli e nel rispetto della distanza dalle altre persone. Minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Questi che avete appena sentito sono i titoli principali dell'edizione di oggi, e invece adesso è il momento dei vostri messaggi a 349-238-6666 e anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Mi sembra che sia il momento delle proposte, o insomma di una concordia, di una voglia di farcela, di una voglia di uscirci da questa situazione, di affrontarla finalmente. Lo vedo dai vostri messaggi, prevale appunto questo clima costruttivo. C'è Maria che dice: perché non riaprire gli ospedali chiusi? Ce ne sono tanti, ne cita alcuni in provincia di Vicenza. Poi Lilli da Milano scrive: questa idea della nave da crociera è giusta, è stata proposta già da Maria Elena Boschi, l'avete sentita poco fa, in un progetto operativo rilanciato dal presidente della regione Liguria Toti. E poi ancora sul fatto di utilizzare i medici laureati pur senza esame di abilitazione, mi sembra che sia scontato chiamare questi 5.000 medici come supporto, anche solo come infermieri o no, dice un ascoltatore. Svegliati Conte, un altro dice: utilizzare subito questi nuovi giovani medici, e anche niente Consip per l'acquisto dei caschi per gli ospedali. La Consip è la centrale per gli acquisti, cioè sapete che ci sono delle procedure centralizzate per gli acquisti della pubblica amministrazione, però si dice, come dire, si invita a superare queste regole, a superare queste procedure, a fare. Questo mi sembra il clima di oggi, venerdì, a proposito dell'emergenza coronavirus. Sentiamo invece il punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Christine Lagarde ha sbagliato le parole, e per un banchiere centrale è come dire che ha sbagliato tutto. Non è un caso che il mestiere del central banking venga definito come l'arte del banchiere centrale, un misto di intuito, di velocità, di esperienza, di controllo dei dati e soprattutto di capacità espositiva. La grande magia di Mario Draghi è stata quella di aver dato alle sue parole il valore intrinseco di atti. È stato l'esempio vivente del valore degli atti linguistici, così come li definiscono gli studiosi del linguaggio. È il momento in cui le parole diventano fatti. Speech Act, si dice in inglese, è la definizione del suo primo scopritore, John Austin, un tenente colonnello degli 007 inglesi, esperto in codici segreti, è diventato poi professore ad Harvard, che per primo fece una lezione sul fare le cose con le parole, di fronte a una platea di studenti rapiti da quella strana teoria. Lagarde cerca ora di riparare, ma i mercati sono implacabili e la reputazione è tutto, perché i banchieri centrali sono in grado di sopportare solo ciò che la fiducia concede alle loro spalle. Adesso vogliamo tornare in Cina, dove la situazione si è rovesciata sicuramente rispetto alla, in una prospettiva almeno rispetto a quella che è la situazione adesso in Europa e in Italia, perché è stato fatto un annuncio anche semiufficiale, è stato superato sicuramente il picco. A Wuhan ci sono pochissimi contagi, il governo locale ha detto che la provincia di Lubei è pronta a far ripartire quasi tutte le attività. Ritroviamo Gabriele Battaglia, che è un italiano, un collega, un giornalista che si trova a Pechino. Ciao Gabriele. Buongiorno. Allora, corrispondente tra l'altro della radio televisione svizzera da lì. Gabriele, intanto c'è stato un annuncio, una comunicazione ufficiale di questo picco che è stato superato. Noi abbiamo dato molta importanza a questa notizia perché, insomma, capirei che dal punto di vista italiano in questo momento fa un certo effetto. Solo 8 contagi ieri a Wuhan, giusto? Sì, è stata proprio tutta la settimana, è stata contraddistinta dal calo drastico dei contagi che si sono verificati solo a Wuhan, quindi non nel resto della Cina, e nel resto della Cina quelli che venivano registrati erano solamente di importazione, cioè gente, sia cinesi sia stranieri, che arrivavano dall'estero. Quindi adesso si pone molta enfasi sul controllo di chi viene da fuori, chiunque viene quarantinato ormai, se viene dall'estero, e poi sul controllo comunque a Wuhan, dove però in settimana è comparso Xi Jinping, e quando il leader massimo va in qualche zona di crisi vuol dire fondamentalmente che la crisi si ritiene che sia superata, perché non si espone in una situazione di indeterminatezza. Certo. Va semmai a raccogliere il dividendo politico di un successo. Ecco, quindi ci sono tanti segnali che ci dicono che la Cina comincia a vedere la luce. Quanto la situazione sia veramente stabile, questo lo capiremo però nei prossimi mesi. Dicevi che adesso sono i possibili focolai, i possibili contagi arrivano dall'estero e tutti vengono messi in quarantena. Tu pure ce l'avevi raccontato, hai fatto la tua parte, perché sei stato fino a credo a poco tempo fa in quarantena, giusto? Sì, io ho finito praticamente l'ultimo giorno in quarantena, è stato l'altro ieri. Io ieri sono uscito, mi hanno dato tutti i documenti, addirittura un lasciapassare per la mia Danwei, che sarebbe la mia unità di lavoro, come c'è nella Cina tradizionale. Qui è scritto il compagno Gabriele Battaglia ha passato i suoi 14 giorni in quarantena, adesso insomma può circolare, ho un lasciapassare che mi permette di entrare e uscire dal mio isolato. Quindi ufficialmente in questo momento sono pulito. Beh, certo, ormai il controllo è un po' ovunque, il controllo medico-sanitario, diciamo, nel senso che io ogni volta che entro nella comunità residenziale, no, quelle comunità di palazzine con intorno i cancelli e così via, mi misurano la febbre, così come entrando in qualsiasi supermercato ti misurano la febbre, in qualsiasi locale ti misurano la febbre. E quindi c'è proprio questo controllo capillare da questo punto. A questo proposito, Gabriele Battaglia, ti voglio chiedere: noi in Italia in questi giorni stiamo parlando molto dell'autorità, della capacità di controllo da parte del governo, dell'esercito che sta in questione nelle strade, della polizia, di queste misure di contenimento, rigide misure, no? E ci si interroga se sia sufficiente, se basti le sanzioni, se gli italiani rispettano le misure, eccetera. E ti voglio chiedere: in Cina, dove noi diamo per scontato che ci sia una forte pressione dello Stato con maniere anche brutali, quanto è questo che ha giocato per contenere il contagio e quanto invece è entrato veramente poi nella testa delle persone con autoresponsabilità, autocontrollo e una forma anche lì, diciamo, collettiva di responsabilità dei singoli? Hai colto il punto, questo è un po' l'oggetto del contendere. La Cina adesso si è lanciata in una grandissima operazione di propaganda per contrastare la propaganda occidentale, dei media, diciamo così, atlantici che c'è stata all'inizio, per cui si diceva lo scoppio dell'epidemia è colpa del modello cinese. Adesso loro stanno dicendo: no, guardate, il modello cinese è l'unico che funziona di fronte a un'epidemia del genere. E quindi c'è questa battaglia di propaganda. Interessante notare che, se è vero che la loro capacità rapida di mobilitazione è riuscita comunque a ottenere dei risultati, questo indubbio bisogna riconoscerlo, all'interno della stessa Cina ci sono delle voci abbastanza dissenzienti che dicono: sì, bene, bravi, siete riusciti a contenere, però ci dovete ancora spiegare come è successo tutto all'inizio. C'è chi cerca di spostare l'accento sul sacrificio della gente di Wuhan, dei cinesi, delle persone in prima linea, no? I medici che gli infermieri e così via. 40.000 sono piombati su Wuhan per cercare di mettere a posto le cose, separando questi meriti da quelli alla fine del partito e del governo che avrebbero all'inizio ritardato. Frenato. Sì, sì. Apprendiamo per esempio che anche negli Stati Uniti stanno frenando un po' le informazioni. Sì, c'è stata una notizia in base alla quale è stato tutto segretato, le notizie sul coronavirus, tutta una serie di dati da parte dell'amministrazione Trump. Gabriele Battaglia, prima di salutarti ti voglio chiedere: ma quindi vi sentite fuori dall'emergenza? C'è questa sensazione di davvero di scampato pericolo, di tirare un sospirone, di sollievo, o vi sentite ancora un po' a metà? No, senza cauti, attenzione, siamo in una fase che possiamo definire nuova normalità, è una normalità controllata e secondo me molte cose non torneranno più come prima, cioè bisogna vedere cosa resterà di questa situazione di controllo in futuro. In questo momento non possiamo ancora dire. Non possiamo ancora saperlo. Intanto però diciamo che una situazione di ritorno alla normalità controllata è quello che speriamo anche noi presto di poter vivere e raccontare. Grazie Gabriele Battaglia. Vedo il mio amico e collega Carlo Genta, mi viene da ridere. perché normalmente noi in questo spazio sì, un po' si cerchiamo anche così di tracciare traiettorie così di intrattenimento, di distrazione di massa, però ogni giorno arrivano notizie dal campo di guerra. Beh sì, Alessio, come da tutte le parti è fatale, perché le notizie di oggi sono del fatto che l'UEFA ha ratificato la decisione che era stata presa dal coronavirus, no? Perché alla fine ci sono casi di positività all'interno ovviamente delle squadre, dopo la ridicola messa in scena di ieri sera quando abbiamo visto 6 partite dell'andata degli ottavi di Europa League, 2 delle quali in Turchia e in Scozia a porte aperte. Beh, a questo punto era impossibile non ratificare una decisione già presa. Positività nel Chelsea, e ricordo che Bayern-Chelsea era una delle partite che doveva rimanere in piedi misteriosamente la settimana prossima. Insomma, l'UEFA ha deciso stop alle Coppe Europee, Champions ed Europa League. Doveva riunirsi e decidere questo martedì 17, invece martedì 17 si parlerà dello svolgimento, che ritengo, credo sia improbabile, dei prossimi europei, con inizio a metà giugno. Questo vorrà dire molte cose, proveremo a parlare di questo. Anche l'Inghilterra ha deciso di chiudere la Premier, anche qui fino a ieri la decisione era quella di giocare normalmente le partite con il pubblico, non si può fare evidentemente, positivo allenatore dell'Arsenal, positivo un giocatore del Chelsea, e quindi non si può giocare e non si giocherà in Inghilterra così come in Francia. In Bundesliga, in Germania, previste le porte chiuse invece per partite che si dovrebbero giocare. Questo è il quadro del calcio. In Formula 1 non si corre in Australia e non si correrà nemmeno nelle 2 successive tappe del calendario. 22 marzo Bahrain, era prevista corsa a porte chiuse, non ci sarà nemmeno il 5 aprile in Vietnam, tutto rinviato al momento. Dunque rimane in piedi la data del 3 di maggio a Zandvoort in Olanda per quanto riguarda la Formula 1, e per il moto mondiale stesso giorno, Jerez della Frontera, vediamo. Non vi invidio a dover raccontare tutto quello che non accadrà, ma come sai benissimo, in ogni settore della vita è tutto in tremendo divenire, quindi e tutto va queste avanti, sono comunque le notizie di oggi. Grazie Carlo, grazie dopo. Carlo Genta, l'appuntamento con voi è naturalmente dopo il GR delle 14, tutti convocati. Piccolo break, torniamo tra poco con